Comincio dai bar, tutta la gente che incontro mi offrirà. Penso che non penso sol per oggi, in brave vodka sono quelli giusti per me. Oh yeah, lasciami stare, dammi da bere, domani ti chiamerò. Dosi sale 7 sono più che perfette per bere un bel po'. Mondoro corallo senza stalla io continuerò. All'età giusta senza usta sono il mulo, tu la frusta, non mi fermo no. Lasciami stare, fammi sognare, domani ti chiamerò. Sono qua.